guarda, la nostra situazione purtroppo è quella di tutti quelli del nostro comparto, che è quello degli spettacoli dal vivo, nel senso che c'è un'incertezza totale, in quanto appunto siamo stati i primi a chiudere già addirittura da prima di fine febbraio e non abbiamo la più pallida idea di quando ci saranno le condizioni per riaprire. Ma al momento le poche certezze che ci sono che difficilmente si troverà una soluzione per tenere comunque un distanziamento sociale ai concerti. Di conseguenza, fino a quando non c'è un vaccino, una cura affidabile, non credo che ci saranno le condizioni per riaprire. Che tradotto in tempi vuol dire bene che vada fine anno, insomma. Questo ovviamente ha un impatto, e ricordiamo che per fare spettacoli dal vivo c'è il lavoro di tante persone, quindi avete lanciato un crowdfunding. Sì, purtroppo non avevamo alternative, nel senso che siamo abbastanza previdenti, nel senso che con le risorse che abbiamo a disposizione non riusciamo sicuramente ad affrontare un anno, nel senso che per fortuna quantomeno soci della cooperativa e dipendenti adesso sono in cassa integrazione, per cui al momento siamo tutelati a livello di lavoro singolo. Non lo sono però tutti i collaboratori atipici, tra virgolette, quindi fonici, facchini, quant'altro, per cui l'idea è quella di fare una scorta che qualora ce ne sia necessità, oltre a coprire le spese fisse che abbiamo ogni mese a livello di affitti, utenze, rate di impianti audio e quant'altro, fare anche un fondo di sicurezza per i lavoratori per andare incontro eventualmente alle esigenze di chi sarà in difficoltà nei prossimi mesi. Saranno sicuramente tanti. Ovviamente tu lo accennavi prima, tutta la programmazione che avevate anche in cantiere è saltata. Possiamo anche ricordare alle ascoltatrici e agli ascoltatori che cosa realizza durante un anno l'Estragon? Il problema vero purtroppo è questo, che non ci siamo trovati tra l'altro a dover affrontare questa chiusura nei mesi più importanti dell'anno, perché la stagione per noi si gioca tutta tra marzo e aprile per il club e sugli eventi estivi che si tengono tra giugno e luglio, per cui ci siamo trovati di punto in bianco a dover cancellare una cinquantina di spettacoli con tutte le conseguenze del caso. Alcuni sono stati rischedulati, diciamo così, ottimisticamente prima sull'estate, poi a ottobre, e ultimamente i nuovi concerti, ovvero quelli che non sono recuperi del periodo di chiusura, si parla addirittura, per stare tranquilli, di febbraio-marzo, per cui dubito che vedremo prima dell'inizio anno gruppi stranieri in Italia, ad esempio. Magari c'è una qualche possibilità in più per i gruppi italiani, nel senso che se in un qualche modo si sblocca prima sugli italiani qualcosa si riuscirà a fare, ma per quanto riguarda le tournée internazionali fino al 2021 penso che sia praticamente impossibile, insomma. Voi vi siete fissati un obiettivo ambizioso, che è quello di 50.000 euro. Come possono fare le persone a sostenervi? Buona, banalmente abbiamo attivato questa raccolta fondi su una piattaforma che è quella di Ginger, l'offerta assolutamente libera e spontanea, nel senso che non ci sono cifre preimposte se non suggerimenti, con alcuni reward, alcuni premi che abbiamo messo per incentivare magari delle cifre un po' più alte, che vanno da alcuni biglietti per i concerti, addirittura un disco d'oro per chi farà un'offerta più sostenuta, però sono piccoli gesti in realtà per provare a riavvicinare, diciamo così, tutti quelli che in questi anni, che sono quasi 30, hanno garantito in un qualche modo la loro presenza, il loro affetto locale. Ci rendiamo conto tra l'altro che andare a chiedere comunque di fare delle offerte in una fase sulla quale ci sono cause molto più nobili, mi viene da dire, soprattutto la sanità, gli ospedali, sia difficile, però purtroppo facciamo parte di quel settore che è più bistrattato di tutti e che comunque sulle proprie gambe non potrà contare, come è successo altre volte. Insomma, abbiamo affrontato in questi 30 anni parecchie crisi, parecchie difficoltà, ma le abbiamo sempre risolte da soli e con il lavoro quotidiano. Questa volta purtroppo, non avendo la possibilità di avere il lavoro quotidiano, per l'appunto abbiamo chiamato a raccolta tutti i nostri fan e tutti quelli che in un qualche modo in questi anni hanno avuto modo di apprezzare il nostro lavoro passando semplicemente una serata da noi.